senti, sotto gli occhiali scuri non ho pupillo dei vortici. Cashi svelto zoccole come i politici. Se parlo crudo peggioro il male, offendi con torto. Il nostro inchiostro è sporco, voi mi create mostro. Troppi film veri in testa, non mi serve il blockbuster. Nella droga tagliata che esce da quelle casse. La mia gente non vi sente né vuole sentire. Mi ucciderebbe se io rimassi bugie. Dal capoluogo di Bamba con i corrotti caramba. Senza baciarla ti balla in faccia la samba. Una mano sulla Bibbia, un'altra pugno armato. Droga in circolo, viso d'angelo e corpo del reato. Musica cruda che alla diffida nella tua radio. Mentre tuo figlio pompa il dogo e si lega allo stadio. È dal vuoto che create che nasce quest'odio. E col mio cerbero al guinzaglio la dico: la verità sta nelle cose che nessuno sa. La verità nessuno mai te la racconterà. Nessuno mai lo farà. La verità sta nelle cose che nessuno sa. La verità nessuno mai te la racconterà. Brucio la carta stampata, sì. È la troia dell'industria, non parla la lingua che gira in strada. Dà la verità in pasta ad un'opinione, non conta più il tuo nome, ma cosa ne pensano le persone? Due lati della medaglia, capitale morale d'Italia, sì. Morale quel capitale per la scaglia, regina di giorno e troia di notte, fra. Si bagna per il lusso, righe salgono su dalle banconote. Milano è schiava del verbo di Cristo, sì. Tace i peccati quando guarda negli occhi del crocifisso. Si fa, ma non si dice, fra. Punta la telecamera, il video vuole il sorriso, perciò taglia via la lacrima, l'anima è sporca, meglio fingersi cieco, sì. Per non vedere che ogni santo ha una storia di sangue dietro. Non sono un uomo comune, non credo al luogo comune, dell'uomo buono vivo nel malcostume. La verità sta nelle cose che nessuno sa. La verità nessuno mai te la racconterà. Nessuno mai lo farà. La verità sta nelle cose che nessuno sa. La verità nessuno mai te la racconterà. Narici d'argento fiutano gli affari. Orecchie d'amianto ignorano i normali. Le storie occultate, il buio che inculcate. Fuori onda vinculate. La G non testimonia i vostri vivi, testimonial puliti. Poi la comprano dei miei amici. La mia voce di persona in carne e ossa. Tu in affetta di realtà io la pannetta più grossa, sì. Per ogni scarpa di Gucci con l'R Mosh. C'è una bocca senza denti dai pucci e senza la doccia. Dillo, la risposta è che il rap li stanca. La verità è che chi fa radio in Italia è sopra i 50. La vita, fra, non ha il perdono come per l'Apo. Se scidi un grammo prendi pugni nel naso dalla Gestapo. Fra, è la storia della gente normale. Via il bel finale, la verità è la merda che ti rimane. La verità sta nelle cose che nessuno sa. La verità nessuno mai te la racconterà.